la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon lunedì 21 di luglio, sono le 16.33 e 37 secondi qui dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia. Tempo pessimo, mi sembra stare a ottobre, ma non lamentiamoci naturalmente sempre del tempo che fa un po' vecchia zia. Argomento della giornata, questa è una puntata pressoché obbligata per obbligo di pluralismo, per così dire, perché quando ricordate due settimane fa, quando uscì il testo del decreto nel quale sono comprese il cosiddetto taglia bolletta elettrica, cioè la rimodulazione di alcuni oneri impropri a costo del consumatore in tariffa elettrica, con l'obiettivo dichiarato dal governo di diminuire al regime del 10%, cioè 1,5 miliardi di euro per le piccole medie imprese la bolletta elettrica, noi ospitammo qua il viceministro De Vincenti che illustrò il provvedimento. È un provvedimento che nel intervenire su diverse voci, i cosiddetti stranded cost, cioè gli oneri impropri che vengono pagati dal consumatore finale, mentre su alcune voci tipo, che ne so, e che naturalmente pesano poco, non è che ottengano chissà quali risparmi, ma comunque non creano problemi nell'opinione pubblica, tipo levare i regimi di vantaggio che c'erano per i dipendenti Enel nella bolletta elettrica, oppure levare i regimi di vantaggio che erano consentiti per il Vaticano e San Marino, oppure, e qua già entriamo in un terreno delicato, levare gli sconti in tariffa che erano previsti dal 63 a Ferrovie dello Stato, perché alla nazionalizzazione elettrica Ferrovie dello Stato cedette all'Enel i suoi impianti di generazione, che però hanno provocato un'enorme protesta da parte di NTV, la compagnia privata dell'alta velocità, che era annessa a quei benefici, secondo me impropriamente, protesta adesso perché gli vengono levati e parla di concorrenza. Secondo me la concorrenza è senza sussidi. Ma al di là di questo blocco di diverse misure, e ce ne sono anche altre nel decreto come abbiamo spiegato, il punto che ha sollevato un grande dibattito, interventi reiterati di grandi organi di informazione internazionale molto critici verso il governo, si sono letti sul Financial Times, sul Wall Street Journal e naturalmente sulla stampa italiana, e anche coloro che sono, diciamo, i più colpiti dalla rimodulazione degli incentivi. Ve lo avevamo spiegato, il più, almeno 0,5 miliardi come gettito atteso, viene dalla rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico, quindi ambito rinnovabile e fotovoltaico. Vi abbiamo spiegato, anzi vi ha spiegato all'epoca il viceministro De Vincenti, in che cosa consiste la misura, e il viceministro disse qui si tratta di rimodulare gli incentivi che sono superiori alle altre fonti rinnovabili per questo particolare soggetti che sono colpiti dal decreto, e superiori agli altri paesi europei. Vedremo che su questo è contestato ciò che dice il governo, e disse in realtà noi interveniamo solo sul 4% agli operatori del fotovoltaico, circa 8.600 imprese su 200.000, però in questi 8.600 imprese del fotovoltaico si concentra il 60% della spesa annua per incentivi, cioè 4,1 miliardi su 6,7 miliardi. A questi soggetti il governo attua una rimodulazione del meccanismo di attribuzione degli incentivi, spalmandoli in 24 anni anziché in 20, offrendogli alternativamente un'autoriduzione dell'incentivo dell'8%, e naturalmente non nascondendosi, perché questo poi l'ho chiesto al viceministro, sì, ma voi diminuite quindi il rendimento di contratti di finanziamento che queste imprese già hanno con le banche e così via, e quindi gli create un problema rispetto alla pianificazione pluriennale che col meccanismo degli incentivi pre-decreto queste imprese hanno posto in atto, la risposta del viceministro era sì, però noi offriamo un sostegno attraverso cassa depositi e prestiti che non è integralmente pari ovviamente al diminuito rendimento, ma che è finalizzato a sostenere in qualche misura difficoltà che dovessero rivelarsi insuperabili. Ecco, tutto questo ha sollevato, ripeto, un enorme dibattito. I giornali internazionali insistono su un punto che è molto delicato e nel quale mi riconosco anch'io, perché perché come al solito lo Stato retroattivamente interviene su contratti privati eccetera eccetera per decreto, e questo è sempre un problema nel nostro paese, lo fa sistematicamente con il fisco e lo fa anche su impegni delle imprese private. E poi secondo problema, perché i rinnovabilisti dicono: ma come, voi riducete gli incentivi alle rinnovabili, disconoscete che questa è la via del futuro, eccetera eccetera eccetera. Allora il programma di oggi nasce per dare voce a chi giustamente dal suo punto di vista non si ritrova in quel decreto, e quindi ascoltiamo oggi le ragioni per le quali in Parlamento, l'appello al Parlamento è quello di modificarlo questo decreto. A dire la verità, si è letto sui giornali che molte forze politiche sono molto sensibili agli argomenti che sentiremo oggi, però tentiamo di capirli così come abbiamo dato voce al governo. Quindi è con noi, e io di questo lo ringrazio, il presidente di Assorinnovabili Agostino Rebaudengo. Buon pomeriggio presidente. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Gli ascoltatori. Allora, da dove vogliamo cominciare? Cominciamo dai maggiori difetti, secondo voi, di questa rimodulazione degli incentivi. Sì, dunque, deve essere, credo, fatta una velocissima premessa. Cioè, noi dobbiamo, prima di tutto, capire se l'Italia e gli italiani vogliono l'energia rinnovabile, che vuol dire che non utilizza il carbone, non utilizza il gas, non utilizza il petrolio, ma il vento, il sole, l'acqua. Allora, se a questa energia riconosciamo un vantaggio, certamente per l'ambiente, certamente per l'aria che respiriamo, e probabilmente mi sia concesso anche di indipendenza rispetto alla Russia, rispetto all'Iraq, rispetto alla Libia, cioè i paesi dove tendenzialmente abbiamo concentrato almeno il 50% delle forniture, dobbiamo dire: o diamo un vantaggio a questa energia perché non inquina e ci dà maggiore indipendenza, o penalizziamo l'energia da fonte fossile perché inquina, e quindi chi inquina in qualche modo paga. Allora, in questo meccanismo, diciamo, sono nati prima un meccanismo un po' complicato, che era dei certificati verdi, e poi, diciamo, più semplicemente è stato spostato sulla componente A3, che anche qui siamo molto tecnici, ma per chi ha seguito la precedente puntata è già molto più preparato, no? Per cui in realtà non stiamo regalando qualcosa a qualcuno, ma stiamo, diciamo aiutando qualcuno perché è più virtuoso, e che sono i produttori di energia rinnovabile. Allora, fatta questa premessa, prima di tutto quello che come imprese non possiamo accettare è rimodulare l'incentivo che viene dato alle imprese, perché sulla base degli incentivi previsti le imprese italiane ed estere hanno fatto degli investimenti, e hanno fatto degli investimenti su dei ritorni che sono in allora 4-5 anni fa erano nell'intorno, e si vero, a due cifre, perché variavano a seconda degli studi che abbiamo fatto, che sono stati fatti, uno da KPMG e l'altro da PricewaterhouseCoopers, che sono due delle quattro più importanti società di certificazione al mondo, cioè hanno dimostrato come, se è vero che un investitore 4 anni fa che è venuto a investire in Italia o è investito in Italia si poteva aspettare tra un 14 e un 16% di ritorno, è anche vero che post questo decreto legge, se venisse convertito, i rendimenti sono compresi tra 3,10 e 4,5%. E questo, quindi, è un primo punto su cui le formulazioni del governo a corredo del provvedimento non tornano con i vostri dati, perché il governo dice era a doppia cifra fino al quinto conto energia, che sono gli strumenti con cui la politica ha deciso negli anni l'incentivazione anche alle fonti rinnovabili, e dal 2012 abbiamo iniziato a ridurre gli incentivi perché in logica comparata si diceva stiamo incentivando troppo rispetto alla marcia indietro che fanno altri paesi, ma detto questo il governo continua a dire no, quale 3% e 4% e il rendimento è più elevato. Comunque questo agli atti, voi dite no, è sbagliato perché ci siamo muniti di una certificazione e di un modellino di indipendenti, di società di consulenti indipendenti che dicono no, il governo su questo sbaglia, corretto? Sì, esatto, sbaglia. Diciamo di società ne abbiamo messe in campo due, non solo una, ma il governo probabilmente non ricorda che negli ultimi 12 mesi solo il settore fotovoltaico è stato gravato di extra tasse tra, diciamo, la Robin Tax, tra l'IMU, eccetera eccetera, tra gli ammortamenti che sono stati, come dire, dimezzati e che quindi hanno dal punto di vista finanziario un impatto molto forte, per oltre 1 miliardo, e anche questo l'abbiamo dichiarato. Quindi 1 miliardo su circa 6,5 miliardi che sono, diciamo, gli incentivi di quest'anno al fotovoltaico, conta per circa il 18% in meno del totale. Quindi forse non l'ha fatto il MISE, l'ha fatto il Tesoro, ma il risultato comunque per gli operatori è lo stesso. Quindi, diciamo, c'è una, insomma, incredibilmente chi ha investito, per essere molto chiaro, al 9% in Germania continua a prendere il 9%, chi ha investito, perché in Italia, diciamo, la rischiosità era più alta e ricordo il costo del denaro era più alto ed era sensibilmente più alto per lo spread, sono 5 punti in più, è stato anche 3 o 4 anni fa. In realtà ha avuto ragione ancora una volta chi è andato a investire in Germania, perché oggi guadagna 3 volte chi ha investito, o almeno largamente 2 volte chi ha investito in Italia. Allora, Presidente, la domanda che a questo punto le pongo, e la risposta viene dopo i 60 secondi di informazione stradale che seguono subito la mia domanda brevissima, è che io dichiaro il mio conflitto di interesse oggi, perché l'avevo già fatto la volta scorsa, cioè questo intervento, compresa la retroattività, nasce da alcuni apporti intellettuali, uno dei quali viene direttamente dall'Istituto Bruno Leoni, di cui io sono senior fellow da anni, insomma sostengo le posizioni. E il Bruno Leoni, che di solito è molto attento a tutte le ragioni delle imprese private contro lo Stato e così via, e in particolare Carlo Stagnaro, che è il direttore scientifico del Bruno Leoni e che adesso non è un mistero per nessuno, ha cooperato al Ministero con il Ministro Guidi a questo decreto, sostiene la linea, sì, ma insomma tutto vero, verissimo, ma quando si tratta di correggere degli errori del passato fatti dal governo, come si fa a non intervenire anche in maniera retroattiva? È un argomento molto scivoloso questo, io me ne rendo conto. Il problema è che in un mondo nel quale nella crisi noi abbiamo una sovracapacità di parco elettrico installato, un'enorme sovracapacità di impianti di rinnovabili dovuto anche a delle vere e proprie bolle dei terreni agricoli, lo sa meglio di me e così via, con alcune regioni che hanno visto le domande di impianto esplodere nel sud del nostro paese e così via. Abbiamo nel mondo, nel 2013, dati dell'Autorità Internazionale dell'Energia, il record di nuovo del carbone come fonte di consumo, naturalmente con la Cina maggior consumatore, ma insomma anche la Germania prevede l'uscita del nucleare, mica da ridere. E in tutto questo, quindi, dice Carlo Stagnaro, per intervenire sul passato bisogna per forza rimodulare anche quelli che in Italia intoccabili diritti quesiti. Ecco, io le pongo questa questione per capire, per Assori Rinnovabili, come e se è sbagliato, dove è contenuto l'errore in questa impostazione. Intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 16:48, primi 57 secondi, molti ascoltatori, e lo capisco benissimo, perché con le materie tecniche di bollette elettriche, le diverse componenti della tariffa è sempre così, si rischia di parlare solo tra e per addetti ai lavori. e quindi io invito il nostro ospite che oggi, per riequilibrare la voce del governo che avevamo ospitato, è con noi Agostino Arere Baudengo, il presidente di Assorinnovabili. Stiamo parlando della rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico, quindi io lo invito a essere il meno tecnico possibile, perché ho molte mail, molte sms di giustificata protesta. Alcuni poi dicono, ho capito, gli abbasseranno il rendimento, ma state parlando di rendimento che nella media dei settori che perdono decine di punti nella crisi, sognarseli ogni anno, anche questo è un po' un argomento. Prego Presidente. Dunque, come sempre, diciamo che se oggi noi dovessimo investire al 3% pagando il denaro tra il 6% e l'8%, sarebbe come lavorare per le banche, non è che nessuno possa permettersi questo meraviglioso lusso. Quindi il problema è che se si investe al 3 bisognerebbe pagare il denaro probabilmente 0-1 e quindi sarebbe compatibile un investimento al 3%, quindi non lo rifarebbe più nessuno. Allora il punto, per essere molto semplici, è che il provvedimento parte da un presupposto che non è, cioè che le imprese guadagnano troppo e hanno guadagnato troppo nel passato. Quindi questo l'abbiamo, credo, dimostrato, meglio lo dimostrano, se ce ne fosse stato bisogno, questi due studi di due importantissime società internazionali che da sole, credo, certifichino il 50% delle società quotate. Ora, il ricordo invece il contrario, che se l'energia nel nostro paese è diminuita, è passata da 70 euro a 45 euro al megawattora, è sicuramente grazie alle energie rinnovabili che hanno cominciato a rappresentare una fonte importante. E quindi, fatte queste premesse, io credo che mi sarei aspettato da un governo che, ripeto, stimo e credo sia molto importante per il nostro paese, che invece fosse molto più aggressivo, non sempre per parlare dei giardino e dell'erba degli altri, ma indubbiamente abbiamo 16 miliardi di fondi strutturali che non utilizzeremo, cioè quasi il 50% di quelli messici a disposizione. Abbiamo un acquirente unico che non ha sfruttato, che è quindi una società del tesoro, che non ha sfruttato propriamente la diminuzione del prezzo, e questo vale 1 miliardo su base annua non trasferita di vantaggio ai consumatori. Abbiamo costi della burocrazia proprio calcolata dalle piccole e medie imprese che si vogliono agevolare, che sono stimati per quasi 31 miliardi. Ecco, allora voglio dire, nell'insieme tutto può essere sempre accettato, anche se provvedimenti retroattivi sono contro la Costituzione e contro gli indirizzi europei, ma certamente voglio dire, non può essere che si vanno a mettere in difficoltà per la maggior parte piccole e medie imprese, e più qualche grande impresa, e invece non si cambiano strutturalmente i veri problemi del nostro paese. Questo noi l'abbiamo spiegato anche alla Commissione del Senato, porterà almeno 10.000 posti di lavoro in meno e soprattutto diminuirà enormemente, l'hanno detto, credo lo leggeremo sul Corriere della Sera domani o dopodomani, anche numerosissimi fondi internazionali che non investiranno più, ma non solo nelle rinnovabili o nell'energia nel nostro paese, ma non investiranno più nelle strutture di cui il nostro paese ha grandissimo bisogno. Penso che sia una manovra per recuperare 330 milioni davvero suicida, penso che sia veramente una manovra che non abbia senso, come voglio dire non ha senso probabilmente investire 1.2 miliardi nel tentare ancora una centrale a carbone pulito nel Sulcis, quando, voglio dire, sui 400 lavoratori basterebbero i 200 milioni a risolvere definitivamente i loro problemi, e forse potremmo destinare 1 miliardo a qualcosa di più produttivo. Ecco, quindi diciamo di correzioni ne potremmo fare tante verso il passato. Quello che veramente preoccupa è che se ne fanno alcune che noi riteniamo fortemente ingiuste, e se ne fanno pochissime di prospettiva rispetto al presente e futuro. Allora, io avrei un'infinità di domande da farle, perché dire la verità, per esempio, che nel nostro paese sia stato quasi impossibile mettere filtri di abbattimento particolarmente avanzati, lei è un tecnico del settore, lo sa, per le centrali a carbone, quando in Germania ancora si utilizza così, perché naturalmente la reazione è no, vacci tu vicino alla centrale a carbone e così via. A me sembra che in sintesi il nostro paese resta un problema con un mix energetico troppo gravato da dipendenza internazionale, Russia e Algeria, e con quello che succede in questi giorni tragici in Ucraina, vediamo quanto questo fattore pesa poi sul totale della politica estera italiana, stiamo zitti su tutto di fronte a 290 morti. E questo è un fatto storico, primo. Secondo, è verissimo, le fonti fossili sono un problema e così via. Naturalmente, non avendo né nucleare e avendo questo problema sugli impianti di tipo energetico, viva le rinnovabili. Detto questo, poi noi abbiamo un mix per cui dal gas continuiamo, visto il tipo di centrali che abbiamo per produrre molta energia di continuità, e sul gas il problema lo risolviamo. Sintesi estrema, un paese che ha costruito un sistema energetico in cui è tutto fatto per impedire al privato di avere costi trasparenti, si mette troppa roba in bolletta, i sussidi agli energivori, i sussidi per chi ha sbagliato modello di investimento, e quindi gli diamo un sussidio perché utilizza poco l'impianto quando ha sbagliato il tipo di impianto, come è avvenuto per Sorgenia, tanto per essere chiari, e la lotta diventa non sul mercato, ma quanti sussidi si porta a casa ciascuno, questo è il problema. Io la vedo un po' così, però è un discorso molto lungo e quindi non le faccio questa domanda. Intanto mi interessa però Alessandro Da Lucca, che ci ha chiamato, a sentire come la pensa. Prego Alessandro. Sì, buonasera Oscar. Sì. Senta, intervengo rapidamente telegraficamente. Io è un anno che sto aspettando un'autorizzazione per i pannelli fotovoltaici da mettere sul tetto della casa, mentre il comune di Lucca me l'ha concessa subito, quasi. La sovrintendenza delle Belle Arti mi sta trovando 3.000 cavilli. Perché lei è un immobile vincolato? Sì, esatto. E siccome io sono in una zona vincolata, probabilmente loro pensano che io dovrò andare con lume candela, non lo so, per non inquinare. Però io mi dico, sto investendo una cifra che supera i 10.000 euro per fare un impianto del genere. È possibile che queste persone non capiscano che quando un... Questi sono i problemi dell'ordinaria inefficienza della pubblica amministrazione italiana, Alessandro, perché lei è in autoproduzione, quindi non è nella categoria dei soggetti di cui parliamo oggi. Certo, l'Italia poi non funziona abitualmente. Senta, Presidente Re Baudengo, che vi aspettate in Parlamento? Le forze politiche mi pare che però un po' di spago ve lo stiano dando, o no? Ma io mi auguro che, come dire, la ragionevolezza abbia il sopravvento. Diciamo, la posizione del Vice Ministro è molto molto ferma, molto molto convinta di avere ragione lui e che tutti gli altri abbiano torto. Noi ovviamente non la pensiamo così, ma devo dire che anche su altre questioni, tipo quella dei SEU, cioè dei piccoli produttori, sì, certo. Anche i piccoli produttori, diciamo, nelle pieghe del DL91 c'è l'introduzione di oneri di sistema per il 5% e non solo. E quindi ma anche quello non aiuta. Va bene, intanto no, noi abbiamo riequilibrato l'informazione del governo. Continuate con Radio 24, appuntamento come a domani.